Allora, di solito quando si pensa al colonialismo vengono in mente mappe antiche, velieri o magari trattati polverosi, roba chiusa nei libri di storia, insomma. Ma in questa nostra nuova immersione profonda, i documenti che abbiamo sul tavolo suggeriscono un'immagine completamente diversa. Assolutamente sì, è un'immagine molto più moderna. Esatto, cioè stiamo per esplorare come quelle antiche strutture di dominio si nascondano oggi praticamente nell'intelligenza artificiale che portiamo tutti in tasca. E per farlo incroceremo testi diversissimi, dai filosofi dell'epistemologia decoloniale come Chigiano, Santos e Lugones, fino alle ricerche tecnologiche moderne di Cave e Dial. La nostra missione qui è svelare questi concetti occulti in modo oggettivo, riportando solo le teorie del testo per capire come viene strutturato il sapere. Neutra, totalmente slegata dal passato. Invece l'epistemologia decoloniale, che in parole povere è lo studio di chi ha il potere di decidere cosa viene considerato un sapere valido, ci mostra un quadro ben diverso. Ci rivela un'architettura invisibile, giusto? Esatto, un'architettura dietro ai dati che usiamo ogni giorno. Ok, analizziamo la questione. Per chi ci ascolta, un modo super utile per visualizzare questa colonialità non è pensarla come un reperto storico da museo. È più simile a un vecchio sistema operativo. Oh, bella analogia. Sì, cioè il computer sembra nuovo di zecca, l'interfaccia è bellissima e luccicante, ma in background continua a girare del codice obsoleto. Per esempio, Quigiano, nei suoi testi, spiega come l'idea stessa di razza non sia un dato biologico, ma un'invenzione, letteralmente progettata secoli fa per giustificare certe gerarchie. E in questo sistema operativo obsoleto si corre un rischio enorme, che Santos definisce epistemicidio. Epistemicidio, una parola pesante. Molto pesante, e non è solo gergo accademico. Indica praticamente la distruzione sistematica di forme di sapere alternative. Cioè, se si impone una sola lente per leggere il mondo, tutto il resto viene silenziosamente cancellato. Ma aspetta, la teoria è affascinante, però come si passa da questa filosofia così astratta al codice di uno smartphone? Voglio dire, come si manifesta concretamente questo vecchio sistema operativo nei software di tutti i giorni? Allora, i ricercatori Cave e di Hyel offrono una risposta molto chiara, parlando di wideness digitale. Hanno analizzato la tecnologia odierna e notato che l'IA, dai volti dei robot umanoidi fino alle voci degli assistenti virtuali, è prevalentemente caratterizzata da tratti bianchi. E non è una coincidenza estetica. Certo che no, è il riflesso di un paradigma che trasforma la bianchezza in un default invisibile, associandola in automatico all'intelligenza, all'autorità e all'idea stessa di futuro. Ed è qui che le cose si fanno veramente interessanti, perché qui vediamo l'impatto tangibile, no? I testi evidenziano come questa impostazione generi dei veri e propri doppi standard algoritmici. Prendiamo il riconoscimento facciale. Le statistiche mostrano tassi di errore drasticamente più alti per i volti di donne nere. Numeri allarmanti, davvero? Ma perché succede? Cioè, non è che la fotocamera abbia dei pregiudizi intrinseci. Il problema è che l'algoritmo impara dai dati che gli vengono forniti. Se i database di addestramento sono composti quasi solo da volti bianchi, il software matematicamente non impara a mappare i tratti di altre etnie. Esatto, è un meccanismo tecnico che però crea danni sociali e reali. Le donne nere subiscono una doppia discriminazione simultanea di genere e di razza, perché i sistemi non sono stati addestrati per riconoscere l'intersezione di queste caratteristiche. E c'è un altro fenomeno inquietante nelle ricerche. Quale sarebbe? Quando vengono testati dei rari robot con sembianze percepite come nere, chi interagisce proietta su di essi vecchi pregiudizi. Praticamente rivolgono a queste macchine commenti molto più deumanizzanti rispetto ai corrispettivi bianchi o asiatici. Wow. Ok, ma la soluzione a questo punto sembrerebbe ovvia, no? Basterebbe progettare assistenti virtuali non bianchi per bilanciare la rappresentazione. Si diversifica il design e boom, problema risolto. Sembra logico, ma i testi ci avvertono di un paradosso della diversità molto insidioso. Inserire intelligenze artificiali con tratti non bianchi in ruoli programmati esclusivamente per l'obbedienza e l'assistenza, come dei perfetti servitori digitali, rischierebbe di replicare e rinforzare storiche dinamiche coloniali di servitù. Aspetta, davvero? Quindi cercare di essere inclusivi in modo superficiale potrebbe paradossalmente peggiorare le cose. Creeremmo letteralmente una classe di servitori digitali basata su vecchi stereotipi. Se colleghiamo questo al quadro generale, comprendiamo la lezione fondamentale di queste ricerche. La tecnologia non è mai una lavagna vuota. Finisce sempre per automatizzare e scalare a livello globale i biasi di chi la progetta e dei dati con cui viene nutrita. Disimparare questa colonialità è l'unico modo per evitare di codificare l'oppressione negli algoritmi del domani. È una riflessione che cambia davvero la percezione dell'innovazione. E chiudiamo questa immersione profonda lasciando a chi ascolta un pensiero provocatorio da esplorare individualmente. Un ottimo modo per concludere. Se le attuali intelligenze artificiali sono uno specchio della storia occidentale e dei suoi pregiudizi, come vedrebbe il mondo un algoritmo addestrato partendo da zero, esclusivamente sulle epistemologie del Sud e sui saperi indigeni che la modernità ha cercato di cancellare? Forse, per liberarci di quel vecchio sistema operativo in background, non basta una patch, serve scriverne uno completamente nuovo.